Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo ancora ad analizzare le scelte dopo l'accordo sul Recovery Fund, ma andando anche in prospettiva, cioè adesso è fondamentale che il governo, attraverso quella che è già stata battezzata Task Force, inizi a lavorare sulla proposta da portare poi a metà ottobre a Bruxelles. Non è una proposta che può essere generica, abbiamo spiegato molto bene, spero, anche ieri, che la proposta andrà dettagliata, che non si può far confusione tra i fondi che mette a disposizione il Recovery con altri strumenti. Penso al SURE per la cassa integrazione, ai fondi messi a disposizione dalla Banca Europea degli investimenti per le piccole e medie imprese e al MES. Il MES Covid, che ha invece una destinazione per le spese sanitarie dirette e indirette. Come chiarivamo anche ieri, non è la riduzione fiscale si può fare e la riforma fiscale si può fare tranquillamente, però questi fondi non possono essere usati per elementi una tantum, cioè per ridurre le tasse un anno e che poi vanno rifinanziati l'anno dopo. Servono interventi che appunto l'Europa chiama strutturali, dove rientrano sicuramente gli interventi in infrastrutture, per esempio, che siano digitali o infrastrutture fisiche, a maggior ragione visto che ci deve essere un 30% di componente cosiddetta green in questi investimenti. Però ne parleremo, anche perché nel frattempo il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha chiesto un terzo scostamento, questa volta da 25 miliardi, che porta l'ammontare complessivo dei soldi messi sul piatto è in disavanzo, in deficit, a 100 miliardi. Nello specifico, questo scostamento ulteriore di 25 miliardi deve servire 10 miliardi per il mondo del lavoro, 3,8 miliardi per il rinvio fiscale, 5 miliardi agli enti locali, 800 miliardi al fondo per le piccole e medie imprese, 800 milioni, scusatemi, e 1 miliardo alla scuola. Secondo il principio però per cui bisogna impegnare nei primi due anni il 70% dei sussidi, non dei prestiti, potrebbero arrivare già per la manovra 2020 28 miliardi e mezzo dal recovery, cioè messi in, c'è un'anticipazione che si può fare sui soldi, ma adesso ne parleremo nel dettaglio più avanti. Per quello che riguarda però altri temi di giornata, segnalo che oggi c'è il rapporto dell'INPS sull'andamento del mercato del lavoro, o sarebbe meglio dire le difficoltà del mercato del lavoro ai tempi di Covid. Nei primi quattro mesi c'è stato un calo molto forte delle assunzioni attivate dai datori di lavoro nel settore privato. Rispetto ai primi quattro mesi del 2019 c'è un meno 39%, cioè sono state attivate dai datori di lavoro solo 1.493.000 assunzioni. Il dato è particolarmente forte ad aprile e marzo, nel senso aprile meno 83, marzo ha fatto meno 45, poi un miglioramento nel mese c'è stato, però insomma l'effetto è un meno 39%. Questo è un effetto dovuto sia alle restrizioni, soprattutto alle restrizioni del lockdown, e quindi chiusura delle attività non essenziali, come sappiamo tutti, e anche la caduta della produzione e dei consumi. L'INPS oggi, dicevo, ha diffuso il suo osservatorio sul precariato e specifica l'INPS che tutte le tipologie contrattuali sono state interessate, ma soprattutto, in maniera più accentuata, le assunzioni con contratti di lavoro a termine. Infatti ci sono 500.000 lavori a tempo determinato in meno, 47% le cessazioni di lavori fissi, meno 47% le cessazioni di lavori fissi. Le domande di disoccupazione hanno fatto più 16%, comunque affronteremo tutto adesso nella prima parte del programma. Per quello che riguarda invece la borsa, meno 0,70% Milano, meno invariata Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, l'America sul Dow Jones mezzo punto percentuale di calo, Va bene Unipol più 3,60, CNH più 2,5, Campari più 1,80, Moncler pure, Azimut più 1,20, Fiat Chrysler più 1,20, Prismian più 1 come ricordati. Sul fronte invece opposto troviamo oltre al banco BPM che perde il 3% e A2A che perde il 2,70, Atlantia il 2,60%. Dicevo, oltre a questo troviamo anche Diasorin, qui pesano anche le vicende di cui abbiamo già parlato, meno 3,5% in questo momento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Di Assorin, chiaramente c'è un'inchiesta in corso sull'accordo con l'ospedale San Matteo di Pavia e il titolo è penalizzato dall'inchiesta appunto in corso, a questo facevo riferimento. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, vedo messaggi, va bene, sulla manovra e perché prima ci scaldavamo per il 3%. Io non mi sono mai scaldato per il 3%, ho sempre detto che il patto di stabilità rischiava di essere prociclico in fase di recessione, quindi ho ascoltato forse un altro programma e ho anche detto che c'era un'ossessione sul deficit italiano a quel tempo rispetto per esempio a quello francese che era stabilmente sopra il 3%. Detto questo, ormai parliamo di un'altra era geologica, visto che il patto di stabilità è sospeso. Andiamo con le notizie in generale di carattere internazionale. Mentre continua a peggiorare la situazione in India, con 1.200.000 casi, è stato superato il livello di 1.200.000 casi, 45.000 nuovi casi in 24 ore. L'India a questo punto è al terzo posto per casi dopo Stati Uniti e Brasile a livello mondiale. Dagli Stati Uniti arrivano invece dati peggiori delle attese sui sussidi alla disoccupazione. Sono rimasti fermi le richieste, sono rimaste ferme 1.410.000. Gli analisti scommettevano su un calo ulteriore, il dato è identico a quello della settimana scorsa. Attualmente ricevono ancora i sussidi di disoccupazione 16.200.000 americani, ma il dato è in calo di 1.100.000 unità. La Brexit, non ne parleremo oggi anche perché insomma, ci sono altri problemi, diciamo così, però è abbastanza scontato a questo punto che non vi sarà nessun accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, era l'auspicio del governo di Boris Johnson e ancora sì, le porte sono in parte aperte per un'intesa entro settembre, così ha detto il capo negoziatore britannico David Frost. Mentre per quello che riguarda, chiedendo anche appunto, chiarendo quello che era stato l'esito dei colloqui con il capo negoziatore di Bruxelles, Michel Barnier, e anche lo stesso Barnier ha detto a conclusione del nuovo incontro, ha detto un accordo con Londra resta al momento poco probabile e ci sono delle difficoltà dovute, dice Barnier, alle posizioni inaccettabili del governo britannico sulla pesca e al rifiuto attuale di impegnarsi per garantire l'allineamento normativo, quello che si chiama in inglese level playing field, che Bruxelles chiede nel timore che Gran Bretagna metta in atto comportamenti di concorrenza sleale. Allora, non so, forse c'è molto caldo oggi perché c'è un ascoltatore che mi imputa il fatto che io prevedevo un rapporto di parità euro su dollaro a 1,1. Adesso è un po' che non ci occupiamo dei rapporti di cambio, ma veramente un po', li citiamo tranquillamente. il rapporto euro su dollaro è una delle poche non notizie di questi mesi, e ne abbiamo avute, siamo a 1,15 oggi, viaggio intorno a 1,11, 1,15, 1,14 e quindi quasi sulla parità, se ci ricordiamo quando era 1,40, non ho capito la critica, ma tiriamo avanti. Lo spread italiano oggi è a 147 punti, il rendimento del BTP è sceso sotto l'1% a 0,986, cioè tornando ai livelli di fine febbraio. Il dato sulle moratorie continua a essere in crescita, le domande pervenute allora, per quello che riguarda le moratorie bancarie, quindi la sospensione dei pagamenti, sono 2.700.000 quelle concesse per un totale di 292 miliardi di euro. So benissimo che si tratta di una sospensione, cioè vai sostanzialmente a allungare la scadenza del debito, che sia un mutuo, che sia un debito di un'impresa, però guardate che è comunque un respiro e 292 miliardi sono una cifra imponente. Mentre per quello che riguarda le domande pervenute dalle banche al fondo di garanzia, quindi le domande in primo luogo per i 30.000 euro, ma non solo, che già processate dalle banche che le mandano al fondo di garanzia, hanno superato quota 879.000 per un totale di 57 miliardi e mezzo di euro, di cui, come sempre, la stragrande maggioranza, 756.000, sono domande fino a 30.000 euro, quelle garantite al 100% dallo Stato, ed è stata allungata anche la scadenza. Le altre riguardano, e quindi 100, sostanzialmente 120.000 altre domande, 130.000 altre domande riguardano le cifre più alte, quindi i prestiti fino a 800.000, i prestiti fino a 5 milioni, e infatti pur essendo molto meno hanno un valore più alto, sostanzialmente appunto rappresentano 42 miliardi su un totale di 57. Allora, la proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Consiglio dei Ministri di ieri. Lì c'è accordo che si sposti al 31 ottobre la data a cui prorogare l'emergenza per la crisi Covid. Resta ancora da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i DPCM emanati durante lo stato di emergenza e che scadono al 31 luglio. È probabile che prima della delibera il Premier Conte faccia un passaggio in Parlamento, come aveva anticipato lo scorso 10 luglio. La proroga dello stato di emergenza consentirà che Palazzo Chigi possa fare ricorso a nuovi DPCM, che sono decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostanzialmente uno strumento legislativo che non ha bisogno di passare per le Camere, al contrario dei decreti. E con lo stato di emergenza la Protezione Civile manterrà anche un ruolo centrale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Poi servirebbe a prorogare lo smart working o prendere decisioni come per esempio blocco del volo da paesi, dei voli da paesi ritenuti a rischio. Oggi era ospite Radio 24, 24 mattina, con Simone Spezia e Maria Ratella, il ministro Speranza, e ha detto: sullo stato di emergenza è indispensabile, sarà indispensabile un confronto con le Camere. Questa è una valutazione che abbiamo deciso proprio ieri sera in Consiglio dei Ministri di fare solo dopo un ulteriore confronto con il Parlamento, perché il Parlamento per noi è evidentemente la fonte, insomma, della forza del governo attraverso un rapporto di fiducia, ed è giusto, il Presidente del Consiglio lo ha ribadito ieri, che ci sia un ulteriore passaggio in Parlamento di confronto e poi si assuma una decisione finale. L'orientamento del governo è che non siamo fuori, da questa vicenda, stiamo molto meglio di prima, non siamo più nella tempesta di marzo, ma ancora c'è bisogno di tenere tutta una serie di norme, di regole, di elementi, insomma, di sicurezza che sono connessi a questa stagione comunque straordinaria. Ma sarà indispensabile il confronto parlamentare per decidere. Di parere diametralmente opposto invece il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha detto: prorogare lo stato di emergenza non esiste, non c'è un'emergenza sanitaria in corso in Italia. Magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza fino al 31 ottobre. Leggevo che ieri in Consiglio dei Ministri non hanno deciso perché prima verranno in aula, noi non li facciamo uscire dall'aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non esiste. Lunedì sarò appositamente in Senato, dove ci sarà un convegno con tanti medici, primari, biologi, virologi e scienziati non allineati al politicamente ottuso. Non c'è nessuna emergenza sanitaria in corso. I numeri dicono il contrario. Chiunque voglia prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia e degli italiani, perché ammazza l'economia italiana. Non esiste, non li facciamo uscire dall'aula. Vabbè, staremo a vedere. Per quello che riguarda invece l'ipotesi seconda ondata, le opinioni sono molto diverse. Oggi, sempre a microfoni Radio 24, il ministro della Salute Speranza ha detto: per combattere la seconda ondata è possibile, ma serviranno velocità e determinazione per arginarla. E poi invece sui fondi alla sanità, visto che parla il ministro della sanità, chiaramente riferimento al MES. Il MES Covid prevede che gli stati possano usare fino al 2% del loro PIL per spese sanitarie dirette o indirette, per noi vorrebbe dire circa 38 miliardi. Ho fatto notare più volte, non è che posso fare una polemica sul MES ogni giorno, però, che il MES ha tassi negativi e comunque i primi due anni non ci sono tassi, ma soprattutto tu hai un risparmio, per farla breve, in 10 anni intorno ai 500 milioni, prendendo i tassi di BTP a 10 anni adesso, il loro rendimento intorno ai 500 milioni all'anno, come ha calcolato più volte il Sole 24 Ore. E quindi avresti un risparmio su 10 anni di 5 miliardi. È chiaro che tu i soldi, quei 38 miliardi li puoi chiedere anche facendo nuove obbligazioni, cioè andando sul mercato con un BTP a 10 anni. Bene, l'unica differenza è che il rendimento è più alto. A chi mi dice la condizionalità, poi possono andare condizionalità, però c'è anche quando emetti le obbligazioni, si chiama spread. Se il paese non è credibile, ti sale lo spread e ti costa di più indebitati. Però detto questo, insomma, uno deve fare anche un calcolo. Ripeto, puoi andare anche sul mercato, fai un'emissione equivalente da 38 miliardi o in 2-3 tranche come vuoi, paghi interessi più alti e non utilizzi il MES. Su cui invece non ha nessun pregiudizio il ministro Speranza, che dice le risorse per la salute devono in ogni caso arrivare. Da Ministro della Salute io lavoro costantemente per portare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi io spingo perché tutte le risorse possibili arrivino al Servizio Sanitario Nazionale. Le risorse del MES sono delle risorse che arrivano a un tasso di interesse molto basso, sono risorse assolutamente significative, quindi io sto già lavorando ad un piano esecutivo, cioè a quale può essere l'idea di come spendere queste risorse. Io penso che non ci deve essere nessun pregiudizio su nessuno strumento, quindi da parte mia le risorse del MES vanno bene, il Parlamento dovrà decidere, perché siamo una democrazia, quindi è giusto che ci sia lì una valutazione definitiva. Quello che non può avvenire, contro cui io mi batterò, è l'idea che a un certo punto le risorse alla salute non arrivino. Questo non è sostenibile, questo non è ammissibile. Io credo che serva una cifra dai 20 miliardi in su, se vogliamo fare un'operazione vera, copernicana, di cambio reale, profondo, sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Gli ambiti sono vari, noi abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità digitale, tema su cui l'Italia è, ahimè, in ritardo, abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità del territorio, sui nostri presidi ospedalieri. C'è un tema enorme, per esempio, che riguarda la nostra capacità come paese di attrarre gli straordinari investimenti che ci sono a livello globale sull'industria farmaceutica. C'è un grande tema di relazione tra sanità e ambiente. Cioè, io penso che noi dobbiamo lavorare a un grande piano di rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale, della nostra sanità pubblica. Noi abbiamo un grande Servizio Sanitario Nazionale che ha retto anche in questa prova molto difficile, ma è un Servizio Sanitario Nazionale che viene da una stagione di tagli, una stagione lunga. Oggi abbiamo bisogno di una nuova fase espansiva, serve un grande piano di sviluppo. Dal mio punto di vista usiamo tutti gli strumenti possibili in campo. Io non ho pregiudizi sul MES, non ho pregiudizi sul Recovery Fund, non ho pregiudizi sul bilancio dello Stato. L'importante è che le risorse arrivino, perché ce n'è profondamente bisogno. Un ultimo passaggio che mi interessa ascoltare, anche perché della scuola ci siamo occupati molto e torneremo a occuparcene, se ne occuperà l'intera Radio 24 con degli approfondimenti appositi anche da settembre con il nuovo palinsesto. Perché? Perché l'abbiamo detto ieri, Scille Caridi per il governo, che è uscito, inutile che qualcuno continui a rompermi le scatole, se una cosa va bene all'Italia o comunque non va male, io ho parlato sostanzialmente di un pareggio ma in cui porti a casa un punto come nel calcio, mi riferisco al recovery fund, è inutile continuare a trovare a spaccare il cappello in due, c'è una notifica per l'Italia e basta. Detto questo, il rischio che io vedo è che il governo attuale perda consenso e anche quello che ha acquisito nella trattativa con l'Europa su due fronti. Il primo, che è più cogente, è la riapertura della scuola. La mia opinione sul ministro Azzolina è nota, ne ho chiesto le dimissioni più volte, quindi non ho altro da aggiungere, però attenzione, perché lo continuerò a dire fino allo sfinimento: i ragazzi, gli studenti, che non sono chiaramente l'oggetto delle attenzioni, perché ci saremmo mossi in maniera diversa, ma sono i sindacati quelli che hanno un peso, i sindacati degli insegnanti, del corpo anche non insegnante della scuola. È vero che gli studenti non votano, votano i loro genitori, e la gestione della riapertura sarà fondamentale per il consenso verso questo governo, per chi lo vuol dare o per chi già gliel'ha dato ed è pronto a cambiare idea. Secondo aspetto, io non capisco perché vedo tante discussioni sui banchi, prestiti preoccupati, i banchi non arriveranno in tempo, banchi con le rotelle. Spero che si stiano guardando con attenzione altri modelli, quello francese, quello spagnolo, guardiamo a quello francese, perché su questo non si può fare da soli. A chi mi dice invece stanno tenendo sotto scacco il paese per una dittatura economico-sanitaria, fascio maoista, anche qui temo che il caldo oggi faccia danni. Non ho capito cosa sia una dittatura fascio maoista, onestamente, forse neanche Curzio Malaparte riuscirebbe a uscire da questo apparente ossimoro. Dittatura economico-sanitaria, beh, dittatura economica no, forse dittatura sanitaria vuole dire. Guardi, noi abbiamo invitato il comitato tecnico scientifico a aggiornare i dati, specificando ancora meglio di quanto non viene fatto quanti positivi sono completamente asintomatici, quanti vengono ricoverati, quindi capire la pressione sanitaria degli attuali nuovi contagiati. E abbiamo invitato più volte ad ascoltare soprattutto i clinici, non solo i virologi, cioè chi sta in ospedale, chi sta in corsia e vede come arrivano sti pazienti, se sti positivi, se vanno ricoverati, se non vanno ricoverati, con che tipo di ricovero, leggero, pesante, in terapia intensiva e quant'altro. E su questo sono d'accordissimo con lei, però attenzione a parlare di dittatura, non dimentichiamoci 35.000 morti e non dimentichiamoci cosa succede in alcuni paesi anche a noi vicini. La situazione in Catalogna dovrebbe quantomeno invitare tutti alla prudenza prima di dire che siamo sotto una dittatura sanitaria. Fermo restando che ho poco interesse per le parole in questo momento dei virologi, mi interessano più quelle dei clinici, cioè di chi sta in ospedale. La riapertura della scuola, dicevamo, anche su questo è intervenuto il ministro Speranza, detto, riapriranno tutte a settembre, servirà un rapporto e serve un rapporto organico con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono convinto che le scuole riapriranno e riapriranno tutte. Il lavoro di queste ore è volto a farle riaprire in piena sicurezza. La scelta di chiudere le scuole è stata, ahimè, una scelta necessaria, ma la più dolorosa tra le scelte fatte. Ma attorno alle scuole girano 10 milioni di persone e in quel momento il nostro paese non poteva consentirsi una mole così significativa di persone in movimento. Oggi l'obiettivo straordinario del governo è riaprire tutte le scuole alla metà di settembre e riaprirle in piena sicurezza. Per farlo io sto anche lavorando a ripristinare un rapporto più organico, più strutturato tra Servizio Sanitario Nazionale e scuole. Questo esisteva, c'era una norma del 1961 che prevedeva la cosiddetta medicina scolastica. Poi negli anni 90 questa cosa è sparita, anche in questo caso nella stagione dei tagli. Noi non possiamo scaricare solo sulle spalle di presidi, insegnanti, del personale scolastico una vicenda che è di natura sanitaria. Scuola e sanità devono affrontare insieme questa sfida della riapertura, ma quello che voglio dire in maniera molto chiara e molto netta, nella metà di settembre le scuole riapriranno e lavoriamo perché riaprano nella massima sicurezza. Sì, vedo molti messaggi sulla scuola. Vabbè, adesso andiamo a vedere che cosa succederà. Sì, mi stanno scrivendo molti ascoltatori che dicono: abbiamo tutta questa preoccupazione per la scuola, poi si faccia un giro nei bar la sera e veda la distanza che c'è tra i ragazzi. Lo so benissimo, però è chiaro che nel momento in cui devi attrezzare la scuola, e diciamola tutta, la scuola si aprirà in un periodo che poi arriva l'autunno, siamo tutti preoccupati sull'autunno, è chiaro che lo Stato ha l'obbligo, non può comportarsi diciamo dicendo vabbè tanto i ragazzi siccome quando escono i più grandi vanno al pub o al bar e sono uno attaccato all'altro, allora li teniamo attaccati, cioè non è questo il modo, è sbagliato che stiano così attaccati quando escono, ma di cosa fai poi? Si può solo appellare diciamo al senso di responsabilità. Comunque, allora, ancora due notizie, poi andiamo sul meteo e parliamo dei dati sulla disoccupazione e soprattutto sul lavoro precario diffusi oggi dall'INPS. Dunque, il ministro De Micheli oggi al Question Time in Senato ha detto che non vi sarà nessun aumento del pedaggio autostradale nel 2020, non vi è e non vi sarà alcun incremento tariffario, che l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Autostrade per l'Italia non determina affatto una statalizzazione del DIASPI perché si prevede l'ingresso di nuovi investitori privati, ma consentirà di velocizzare il processo della società in una public company, e che entro il 28 luglio verrà ripristinata completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilità in Liguria. Sì, lì è stato fatto un casino anche dal Ministero e dal direttore tecnico del Ministero, comunque abbiamo già parlato. Per quello che riguarda le autostrade, dice il Presidente della Camera Roberto Fico, durante la cerimonia del ventaglio è stato raggiunto un ottimo punto di caduta. Per quello che riguarda autostrada, ecco, forse visto che di mezzo c'era il Ponte Morandi, se fossi stato il presidente della Camera non avrei parlato di punto di caduta, solo perché purtroppo una caduta c'è stata tra quella del Ponte Morandi, non l'unica. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità, poi iniziamo a parlare del mercato del lavoro. Focus Economia. Sette e 40 minuti, è arrivato nel frattempo l'agenzia con i nuovi dati di oggi, e appunto ecco perché ritengo importante che si venga chiarito meglio della protezione civile sui nuovi contagiati, quanti erano completamente asintomatici e quelli invece con i sintomi, che sintomi avevano e che elemento clinico c'è stato. Perché voglio dire, il vero problema, come sappiamo tutti, di questo incubo pandemia è stato quello che è avvenuto negli ospedali, cioè ha rischiato di mandare in cortocircuito il sistema ospedaliero, non solo italiano, anche quello francese, spagnolo, britannico, quindi è lì il fronte. Perché lo dico? Perché ci sono 306 nuovi contagiati, quindi il dato è più alto rispetto a ieri, era 282. Le nuove vittime sono sostanzialmente come quelle di ieri, 10 oggi, ieri 9. Tutto qua, quindi bisogna capire, anche sarebbe utile avere un'informazione un po' più articolata, mettiamola così. Il mercato del lavoro in tempi di Covid. Allora, l'INPS ha diffuso i dati dell'osservatorio sul precariato. Allora, nei primi 4 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019 le assunzioni attivate dai datori di lavoro sono state meno 39%, in particolare meno 83% ad aprile e meno 45% a marzo. Tutte le tipologie contrattuali sono state interessate, ma in maniera più accentuata le assunzioni con contratti di lavoro a termine, perché ci sono 499.000 rapporti di lavoro a tempo determinato in meno. Quindi come differenza tra quelli che sono stati attivati e quelli che sono stati invece quelli che sono cessati. Da questo punto di vista il saldo appunto è di quasi mezzo milione di lavori a tempo determinato in meno. Le domande di disoccupazione salgono tra gennaio e maggio al 16%. La buona notizia è che le ore di cassa integrazione autorizzate a giugno sono state 408 milioni, cioè la metà rispetto a quelle di maggio. Complessivamente la cassa integrazione autorizzata dal 1 aprile al 30 giugno è stata pari a 2 miliardi di ore, 1 miliardo in ordinaria, 628 milioni per la solidarietà e 390 milioni di ore in cassa integrazione in deroga. Allora, vorrei commentare questi dati con Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, che spesso sentiamo per commentare i dati sul lavoro, è il Centro Studi sul Lavoro e l'Occupazione fondato da Marco Biagi. Buonasera Seghezzi. Seghezzi, mi sente? Buonasera, mi sentite? Sì, adesso la sentiamo. Perfetto. Dunque, allora è chiaro che aspettarsi buone notizie dai dati sul mercato del lavoro è impossibile in questo periodo, anche perché i dati sono ancora riferiti appunto a, in questo caso, anche marzo e aprile. Le cessazioni di rapporti di lavoro nel settore privato sono state complessivamente 1.700.000 quindi meno 47% la cessazione di lavori fissi. Come, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come si spiega il fatto che ci siano state meno cessazioni di lavori fissi e invece mezzo milione di lavoratori a tempo determinato in meno? A meno che lei non mi dica, beh, c'è il blocco dei licenziamenti e c'è la cassa integrazione, si spiega in questo modo. C'è stato, soprattutto, credo che il dato più forte, più marcato di questi mesi, una grandissima riduzione dei nuovi contratti d'ingresso, soprattutto. Ossia le assunzioni, come già avevamo osservato guardando, penso, i dati del Veneto, che vengono diffusi con più frequenza, appunto una diminuzione notevole dei nuovi rapporti di lavoro, data dal fatto che da un lato già a gennaio e febbraio, questo è da tenere in mente, diciamo che l'andamento non era dei migliori, c'era già stato un calo, ma poi a marzo e aprile il calo è tale per cui nei primi quattro mesi del 2020 noi abbiamo circa 1 milione di rapporti di lavoro in meno attivati rispetto all'anno scorso. 1 milione che ci fa passare da 2.400.000 dell'anno scorso a 1.400.000 di quest'anno, quindi è un numero molto importante, laddove il milione è più della metà. Le cessazioni sono un pochino diminuite perché il blocco dei licenziamenti ha evidentemente influito notevolmente su questo andamento, tant'è che sono più o meno circa 200.000 in meno rispetto allo scorso anno, concentrate soprattutto sul mese di aprile, diciamo, questo rallentamento, ma questo porta come risultato a un numero netto di rapporti di lavoro in meno di circa 320.000 nei soli mesi di marzo-aprile, perché non basta dire sono rallentate le cessazioni, ma il problema vero è che non ci sono state nuove assunzioni, e questo capiamo tutti che è un problema, soprattutto lasciatemelo dire per la fetta soprattutto dei giovani, che è quella che è più interessata dalle nuove assunzioni normalmente. Allora, quindi Seghezzi, se ho ben capito, lei dice la difficoltà si è scaricata, il lockdown, attività chiuse, si è scaricata soprattutto sui nuovi contratti. Vuoi perché i contratti già esistenti sappiamo che il 48% delle imprese ha continuato a lavorare, ma diciamo il 52% no, e soprattutto la stragrande maggioranza del mondo dei servizi e del commercio era chiuso. Per cui dice le nuove assunzioni è lì che si è, e quindi anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, è lì che si è scaricato il grosso, perché sui lavori già esistenti, sui contratti già esistenti, c'è stata o la cassa integrazione già esistenti a tempo determinato e comunque il blocco dei licenziamenti. Un dato positivo potrebbe riguardare le ore di cassa integrazione, quelle che io citavo a giugno, sono la metà di maggio, perché sappiamo che la cassa integrazione tu la levi se torni effettivamente a lavorare, se hai bisogno dei tuoi dipendenti, se no mantieni la cassa integrazione. Allora, stavo confrontando prima i dati della cassa integrazione, gli ultimi, che sono in calo, comunque di un calo importante rispetto a quelli dei mesi scorsi, con il dato storico, per cui possiamo dire che è un dato positivo, ma ricordiamo che il dato pur positivo resta tra i più alti, anzi direi più alto della media dei momenti di crisi più profondi del nostro paese. Quindi diciamo che è positivo, ma è lontano da quel fenomeno di ripresa a V che qualcuno immaginava, per cui è ancora molto alto, non è sicuramente una situazione normale. Ma io guardavo per esempio l'altro ieri i dati di Brescia, delle imprese bresciane, nei mesi di marzo e aprile sono state utilizzate più ore di cassa integrazione che in tutto il 2000, 2009 e 2010, cioè anni pesantissimi, perché cioè, in due mesi hai usato più ore di cassa integrazione che in due anni, e anni pesanti. Resti con noi, Seghezzi, ho ancora un paio di domande da farle. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo intanto sul traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare. E con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Focus Economia. Minuti, vorrei concludere con, vedo molti messaggi di vari ascoltatori sui casi, contagi, quanto diciamo, pesanti sono i nuovi contagiati, che cala, io ho solo chiesto per correttezza la protezione civile, se la protezione civile oltre al dato sui nuovi positivi ci può dire, e i decessi, ci può dire anche quanti di questi nuovi positivi hanno una carica virale molto talmente forte da essere ricoverati, quanti erano asintomatici, che tipo di ricovero c'è, un ricovero leggero, uno va, viene semplicemente osservato e viene invece ricoverato in reparto o addirittura in terapia intensiva. Alcuni mi dicono fate anche notare quali sono i casi importati, sono d'accordo, non per parlare dei non italiani, ma per capire quanti contagi, diciamo, creiamo in loco e quanti sono frutto di persone arrivate in Italia. È solo per avere maggior dettaglio, il dato aggregato così non serve a niente, come quello di oggi, 306 nuovi contagiati senza dirci come li avete scoperti e qual è il quadro clinico soprattutto di questi contagiati. Seghezzi, torno da lei invece per capire una cosa. Oggi il ministro Catalfo ha incontrato CGIL, CISL e UIL sulla riforma degli ammortizzatori sociali. E da quello che si è capito, ha detto la Catalfo che il nuovo decreto conterrà un pacchetto di misure per il lavoro che comprende la proroga della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane. La cassa partirebbe dal 15 luglio, per le settimane si adotterebbe la formula 9 più 9. E in alternativa vi sarebbe uno sgravio per quelle aziende che decidono di far entrare i propri dipendenti al lavoro e vi sarebbe appunto la decontribuzione per le nuove assunzioni. Esclusa invece una proroga della cassa integrazione per settori. La CGIL ha detto positiva l'intenzione del governo di prorogare le integrazioni salariali. Ora, due cose vorrei capire da lei. Uno, quando avremo dei dati da questo punto di vista, perché adesso noi stiamo analizzando ancora marzo, aprile, una situazione allucinante, tutto, i servizi, il commercio chiusi, il lockdown. Quando potremo guardare dei dati che ci diranno invece l'effetto a questo punto che ha avuto sul mondo del lavoro il Covid, al di là della fase emergenziale marzo, aprile, maggio? Seghezzi, non lo sentiamo più. E adesso riprenderemo Seghezzi che... No, adesso vi sento, scusate. E direi che il fattore estate è un fattore importante per la componente politica, che il mercato del lavoro italiano in qualche modo lo smuove non poco, quindi io direi che i dati devono comprendere quantomeno il mese di luglio-agosto, perché consentono un'idea di quella che è stata una lenta ripartenza, se c'è stata, della manifattura, e aggiungono la componente turistica, in cui si vedrà se l'impatto del mancato afflusso di turismo straniero è stato in qualche modo compensato da la permanenza del turismo italiano, per cui vuol dire dati che noi dovremmo avere dal punto di vista statistico, quindi Istat, intorno all'inizio di ottobre, dal punto di vista amministrativo, quindi IMSS, intorno a novembre. Aggiungo solo una cosa, sì, all'interno del pacchetto di cose discusse. Il dato, l'altro dato importante è che in tutto questo sembra essere prolungato il blocco di licenziamenti. No, guardi, le do una notizia che adesso hanno battuto le agenzie. Oltre all'allungamento della cassa integrazione, in parallelo c'è lo stop dei licenziamenti fino a tutto il periodo in cui le imprese sono coperte dalla CIG, cioè dalla cassa integrazione, okay, dal 15 luglio al 31 dicembre. È emerso anche questo dal tavolo tra il ministro del lavoro Catalfo e i sindacati, così come è emerso che vi sarà una deroga temporanea, secondo me è cosa buona e giusta, sulle causali dei contratti a termine, limitatamente alle proroghe e ai rinnovi e fino alla fine dell'anno. Sapete che il tema della causale è quello che blocca, quel DL Dignità, come si chiamava, che blocca il rinnovo di tempi determinati. Allora, in un periodo così eccezionale, manca solo mettere anche la causale e il rischio che tu poi faccia ricorso al giudice se la causale non è poi rispettata. Da quello che si è capito, viene sospesa fino a fine anno. Vorrei un suo giudizio sul blocco dei licenziamenti, prolungamento della cassa integrazione e sospensione della causale. No, questo mi sembra un passaggio, comunque già un primo passaggio, quello del blocco dello sblocco dei licenziamenti per chi non usufruisce della cassa integrazione, perché questo significa che laddove ci sono imprese che già oggi purtroppo sanno di non poter continuare a pagare stipendi, di non poter anticipare la cassa, sanno che la strada è quella del fallimento, continuare a tenere forzatamente bloccate queste situazioni evidentemente genera un problema, perché no, i guardi, lavoratori io ho capito l'opposto, cioè c'è lo stop dei licenziamenti fino a tutto il periodo in cui le imprese sono coperte dalla CIG, cioè dal 15 luglio al 31 dicembre. Adesso aspettiamo chiaramente. No, esatto, quindi chi non utilizzerà la cassa integrazione credo che possa licenziare, mi sembra questo il ragionamento. Sì, cioè dovrebbe essere anche una decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato e uno sgravio nelle aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro. L'ho interrotta a 20 secondi, prego. È molto importante, perché se un lavoratore non è più con lo stipendio, l'azienda non lo paga, non c'è la cassa integrazione, dovrebbe dimettersi. L'unica soluzione per rimettersi sul mercato del lavoro, dimettendosi, perderebbe il diritto all'assegno di disoccupazione, alla NASPI, il che sarebbe un danno importante. Quindi si era creata una contraddizione tale per cui tante aziende che erano purtroppo destinate al fallimento non potevano neanche in ultimo licenziare i lavoratori e lasciarli accedere alla NASPI. Questo invece mi sembra uno sblocco importante per in qualche modo provare a rimettere in moto un mercato del lavoro e non tenerlo ingessato a tempo indeterminato. Grazie anche al direttore del Centro Studi ADAPT, della Fondazione ADAPT, Francesco Seghetti. Andiamo sul GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Il tema si chiama da un lato Recovery Fund, perché vi sono state altre dichiarazioni oggi, ma dall'altro anche iniziare a ragionare su come l'Italia non può farsi trovare impreparata all'appuntamento del prossimo ottobre, perché a metà ottobre bisogna presentare il piano su come si intendono spendere i soldi. L'Italia ha 209 miliardi, l'abbiamo già chiarito, di cui la parte di sussidi, quindi a fondo perduto, sono 81,5 miliardi, la parte invece di finanziamenti, di prestiti, da rimborsarsi però in un periodo molto in là nel tempo, dal 2027, riguarda 127 miliardi. I paesi dovranno impegnarsi, quindi anche l'Italia, a impiegare i fondi entro il dicembre del 2023 e spenderli materialmente entro il dicembre 2026. Potranno anche usarli retroattivamente per i progetti finanziati dal febbraio del 2020. L'Italia, cioè non solo l'Italia, ma insomma anche l'Italia, deve impegnare nei prossimi due anni il 70% dei fondi per i sussidi, sono 56,7 miliardi per l'Italia, cioè 28 miliardi all'anno, e può anche, se ho ben capito, c'è un 10% che che può essere anticipato. In termini di cassa si può coprire l'anno prossimo il 10% di prefinanziamento dell'intero programma. E in questo caso però si devono sommare sussidi e prestiti. Per l'Italia si dovrebbe un assegno di poco superiore ai 20 miliardi, e questo prefinanziamento, questi 20 miliardi però, parte sussidi, parte prestiti, si può utilizzare anche per quest'anno, perché per le cifre stanziate a febbraio, purché siano coerenti con il programma. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi già anticipare un 20 miliardi di prefinanziamento delle spese sostenute da febbraio, e poi comunque devi spendere nei prossimi due anni il 70% dei fondi per i sussidi 2021-2022 e spendere il restante 30% entro il dicembre del 2023. Questo è il quadro complessivo. C'è stata oggi una dichiarazione di Michel Barnier, di Charles Michel, che è il Presidente del Consiglio Europeo, alla plenaria del Parlamento Europeo, e ha detto: è un giorno triste per gli estremisti, è un giorno felice per gli europei. J'ai entendu les propos, disons-le, un peu misérables des partis extrémistes représentés. Ça, je mesure bien. Vous choisissez le repli. Vous choisissez la haine, vous choisissez la séparation, vous choisissez le rejet. Nous choisissons la tolérance, l'ouverture, le rassemblement. C'est un triste jour pour vous, c'est un jour heureux pour l'Europe et pour les Européens. Oh, stava bello teso Michel, che era dato dei miserabili agli estremisti. E von der Leyen ha detto, la Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto: la risposta dell'Unione Europea è impressionante, si era affrontata le aspettative realistiche, la risposta dell'Europa alla crisi è stata impressionante. E ancora la von der Leyen: la risposta europea è per evitare gli errori fatti nel passato. E poi vi è stato invece un voto parlamentare in Europa, in cui poco fa sostanzialmente Forza Italia ha votato con PD e 5 Stelle, mentre la Lega e Fratelli d'Italia si sono astenute sulla risoluzione sulle conclusioni del Consiglio Europeo straordinario, e quindi Forza Italia ha votato a favore insieme al PD e ai 5 Stelle. Per quello che riguarda invece altre proposte, ma non c'entrano con il Parlamento Europeo, vedo che la ministra Bellanova, le politiche agricole, ha chiesto un fondo ad hoc dal valore di 1 miliardo per un bonus di 5.000 euro a fondo perduto diretto a 180.000 ristoranti perché acquistino prodotti agroalimentari nazionali, al fine di garantire un'immediata iniezione di liquidità nel sistema e favorire i pagamenti delle prime settimane di riapertura e sostenere l'acquisto di prodotti italiani. Non mi sembra una cattiva idea, vista così, se il bonus uno potrebbe distinguere tra ristoranti che stanno lavorando bene adesso e quelli che sono invece sostanzialmente ancora deserti. Però se il bonus va indirizzato agli acquisti di prodotti agroalimentari nazionali, ma comunque un'idea virtuosa, perché vai a alimentare anche il fatturato dell'agroalimentare italiano. Però parliamo del recovery e delle sue caratteristiche, visto che questo potrebbe essere già utile sulla manovra che il governo deve affrontare adesso sul 2021, ma anche per le spese già sostenute, visto che si è varato un altro scostamento di bilancio ieri. È impressionante, perché tutti dicono i soldi, sì, ma attenzione, perché lo scostamento di bilancio di ieri ha portato a un livello ancora più alto quello che è sostanzialmente il deficit, o la manovra in deficit, a 100 miliardi. Allora, ringrazio gli ospiti per parlare di questo e di come il governo si sta approntando alla task force. Da un lato ringrazio per averci aggiunto in collegamento Lorenzo Foni, che è segretario generale di Prometeia e professore di politica economica all'Università di Padova. Buonasera Forni. Buonasera. Ecco, se ha in viva voce le chiedo di levare il viva voce, che la sento con un po' di eco. Grazie anche a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera, eccomi. E con te affronteremo soprattutto il tema della task force, di come il governo vuole organizzare quello che deve portare a metà ottobre a Bruxelles, quindi il dettaglio della spesa. Ieri appunto il CDM ha varato altri 25 miliardi di scostamento di bilancio, che portano lo sforzo complessivo a 100 miliardi, di questi 10 miliardi, di questi 25 serviranno per il lavoro, politica del lavoro, 3,8 miliardi per il rinvio fiscale, 5,2 miliardi vanno agli enti locali, 800 milioni al fondo piccole e medie imprese e 1 miliardo alla scuola. Allora, Forni, noi raccogliamo varie testimonianze. Mi dirà intanto del suo giudizio sull'accordo raggiunto e soprattutto sui rischi per l'Italia, ma anche sulle opportunità. Raccontavo di quanto si può anticipare in prefinanziamento fino al 10% e quanto comunque andrà speso nei prossimi due anni almeno il 70%. Ma spero innanzitutto che mi sentiate bene. Sì, adesso sì. Ottimo. Ma guardi, ovviamente gli ammontari sono abbastanza rilevanti, però se lei pensa 750 miliardi sono circa il 5% del PIL europeo. Io credo che sia più importante il processo, cioè il fatto che dobbiamo presentare un piano di riforma, piani vari di riforma, discutere a livello europeo, portarli avanti, diciamo, in cooperazione con gli altri e con gli altri paesi. Cioè bisogna pensare un attimo a come investire questi soldi. E questa, a mio avviso, è la parte più importante, perché l'Europa finalmente, emettendo titoli comuni, in un certo senso sta creando, no, quella capacità fiscale a livello federale di cui si è parlato per tanto tempo e che fino adesso sostanzialmente dall'euro i paesi europei non avevano più veramente messo in comune quasi nulla, a parte, diciamo, la Banking Union, che è stato un altro passo molto importante. Però sì, anche perché questi soldi, questi 750 miliardi, la Commissione li va a raccogliere sul mercato, è forte di un bilancio europeo di 1.074 miliardi, ma quindi non si può dire in tedesco, ma è una forma di eurobond, mettiamola così, è una condivisione. È un eurobond, anzi è meglio di un eurobond, no? Perché per anni abbiamo parlato di fare un eurobond sintetico mettendo insieme, no, l'emissione dei titoli nazionali, eccetera. Questo invece è proprio un titolo europeo, è un titolo dell'Unione Europea, quindi più, adesso possiamo usare i nomi che vogliamo, però la differenza qual è? È che la responsabilità di ripagamento cade sulla Commissione Europea e sull'Unione Europea. Ovviamente alla fine poi ricade sui vari paesi, però adesso non entro nel dettaglio delle proposte precedenti che in cui si parlava, no, della joint liability. No, va bene, adesso stiamo sul recovery attuale, e fa bene notare appunto che per la prima volta una vera emissione di debito europeo per finanziare i vari paesi. Infatti io non capisco, in chi critica anche questo accordo, che cosa si attendesse. Cioè abbiamo detto per anni che l'Europa era ossessionata dai principi ragionieristici e il patto di stabilità è stato sospeso. Abbiamo elogiato Mario Draghi perché ha salvato l'euro e Christine Lagarde ha continuato su quella strada con un'operazione da 750 miliardi di acquisti di titoli di Stato. Abbiamo criticato la Germania perché era poco lungimirante e Angela Merkel ha avuto un ruolo fondamentale nell'arrivare a questo accordo. Abbiamo criticato Bruxelles in questi anni perché appunto non c'era mai, se non l'ossessione per il deficit e il patto di stabilità, non c'era mai un piano di investimenti comuni all'Europa, finanziato a livello europeo, adesso c'è. Dino Pesole, vorrei capire invece con te, poi torniamo anche a Forni, anche che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo, perché abbiamo visto Forza Italia votare con PD e 5 Stelle, ma nel frattempo, da questo punto di vista, c'è anche tutto il tema che sta ruotando attorno alla task force, al di là dello scostamento di bilancio, cioè come verrà creata e sostanzialmente chi ne avrà in mano chi avrà in mano la parola finale, cioè il Ministero dell'Economia o in realtà il Presidente del Consiglio. Sì, partiamo dal voto dell'Europarlamento. Beh, insomma, potrebbe costituire un po' un anticipo di quello che qualcuno immagina possa accadere nella votazione qualora il governo decida di attivarlo sul MES, perché come sappiamo siamo di fronte al paradosso che noi ora accediamo a un fondamentale, secondo me anche storico, accordo europeo che ci consentirà appunto di ottenere 209 miliardi, che però naturalmente comporta delle condizionalità, anche se sono relative a riforme e investimenti che bisogna fare e non a, come dire, processi di rientro forzato o forzoso dal debito. E però non accediamo al MES, che condizionalità non le ha, e quindi potrebbe essere interpretato come un anticipo di una possibile convergenza di voti anche sullo scostamento di bilancio, perché non è detto che al Senato ci siano i voti, perché lì Sì, anche perché la Meloni ha detto o vediamo le proposte nero su bianco, non votiamo lo scostamento di bilancio, così come Salvini ha detto voteremo lo scostamento solo se saranno accolte le nostre proposte. Esatto, cioè le prime che sono l'anno bianco fiscale da questo punto di vista è la proposta, sì, della Lega. Prego. Allora, nelle prime due votazioni eravamo in emergenza, cioè il primo scostamento è stato di circa 25 miliardi, il secondo di 55. Anche le opposizioni hanno votato a favore e ricordo che quello è fondamentale perché ci vuole la votazione a maggioranza assoluta. Adesso potrebbe non bastare, quindi, come dire, un soccorso da parte di Forza Italia non è del tutto escluso ed è chiaro che ci sarebbero anche delle implicazioni politiche per questo cambio, come dire, integrazione tra virgolette della maggioranza. Quanto alla task force, ecco, su questo ti dico che la Bernini, la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha detto se il governo non avrà i numeri in Senato per il nuovo scostamento di bilancio, questa volta non conti sul sostegno a scatola chiusa, non è scontato il soccorso di Forza Italia perché senza precise garanzie su come e dove saranno impiegati questi soldi. Eh sì, infatti, e poi invece per quanto riguarda la task force, siamo in presenza di un dibattito che già abbiamo visto, ad esempio fu anche Renzi che durante il suo governo provò a spostare a Palazzo Chigi buona parte della cabina di regia, ma dal Ministero dell'Economia ci fu una certa resistenza. Allora, cioè, naturalmente il Presidente del Consiglio sta cercando di centralizzare al massimo questa fase che è fondamentale, perché da qui a ottobre noi dobbiamo presentare un piano di riforme e di investimenti che vale per i prossimi anni e quindi insomma mi sembra che sia passaggio non da poco, e però bisogna, come dire, trovare delle forme di integrazione sia con il Ministero dell'Economia e Finanze ma anche con tutti gli altri ministeri. Pare che Conte ovviamente voglia in ogni caso essere molto presente all'interno di questa task force attraverso i suoi consiglieri e poi anche personalmente. Quindi c'è una dialettica, ma insomma alla fine ci arriverà una sintesi. Allora, dopo il traffico chiederò a te e anche al professor Forni di così darmi un'idea di dove dovrebbero andare questi soldi, perché un conto sono le riforme. Ieri ne parlavamo anche con Gianni Trovati e Adriana Ceretelli, per carità, la riforma della pubblica amministrazione, la digitalizzazione, la riforma della giustizia. Sono tutte cose che sono molto importanti, ma non esplicano i loro effetti domani, una volta che le fai, cioè ci mette un po' di tempo. Noi abbiamo bisogno però di far ripartire i consumi, il PIL, subito, magari anticipando già, come prevede l'accordo, il 10% di copertura sulle spese effettuate quest'anno e poi andando subito a impegnare 28 miliardi all'anno dal prossimo anno di questo recovery. Parlo solo del lato recovery. Vorrei capire dove, se foste voi nella task force, li indirizzereste subito questi soldi, al di là della parte diciamo più di contingenza che non rientra però nella parte strutturale, penso appunto ai comuni o al rifinanziamento della cassa integrazione. Dopo il traffico. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Si arricchisce l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Anche 5,70 euro in contanti in aggiunta a 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca fino al 28 luglio, con un premio implicito complessivo del 44,7% ai prezzi del 14 febbraio per gli azionisti UbiBanca che aderiscono all'offerta. Costruiamo insieme un futuro ancora più grande. Per aderire all'offerta puoi recarti nella filiale della tua banca o contattare il tuo gestore di fiducia. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta, il prospetto informativo e il relativo supplemento disponibili sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Focus Economia. Allora, professor Forni, dove li indirizzerebbe, al di là delle riforme, subito, se dovesse far parte della task force, questi soldi? Infrastrutture? Teniamo conto che comunque l'Unione Europea, la Commissione Europea hanno delle priorità, quindi questi piani in qualche maniera devono seguire queste priorità, quindi c'è tutto l'aspetto della decisione e l'aspetto della green economy. E lì c'è una prateria di possibili investimenti tra banda larga, e altri investimenti per infrastrutture tecnologiche e tutta la parte della green economy, che poi può anche prevedere, no, la messa in sicurezza di certe aree per alluvione, cose del genere. Quindi in realtà le possibilità di investimenti sono molto ampie. Teniamo anche conto che la Commissione, diciamo il comunicato stampa del Consiglio europeo ha anche chiarito che bisognerà seguire quelle che sono state le raccomandazioni della Commissione europea sui piani nazionali degli ultimi anni. Quindi non è che ci si inventa nulla improvvisamente. La Commissione europea è da anni che suggerisce alcune riforme che possono avere anche dei costi. Non bisogna pensare che una riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, poi non possa comportare dei costi, anzi è probabile che ci siano dei costi. E quindi, a mio avviso, la cosa importante è fare tutta questa cosa in maniera, diciamo, integrata, in collaborazione con gli altri paesi europei, anche per un'altra ragione, che se riusciamo a inserirci, diciamo, nel treno dei settori in Europa che ripartiranno meglio, che probabilmente riguardano l'IT e il green, beneficeremo di forti spillover, quindi potremmo, no, anche migliorare le nostre esportazioni in questi settori. Quindi credo che la cooperazione e l'integrazione su queste linee con gli altri paesi europei sia molto importante. E Dino Pesaro, ieri Adriana Ceretelli diceva: beh, attenzione, le spese sanitarie dirette e indirette sembrerebbe un po' strano presentarle, perché c'è già uno strumento che si chiama MES, e aggiungo io, ha meno condizionalità a sto punto del Recovery Fund, che invece piace a tutti, giustamente, ma mi sembra una questione di rana caprina. Così come non si può immaginare di usare questi soldi per ridurre le tasse, cioè, perché non sono interventi strutturali, visto che ieri c'era la proposta di Salvini di usiamo i soldi per le tasse, non si può. Sulle infrastrutture però sì. Assolutamente sì, anche perché poi, appunto, come diceva il professor Forni, se andiamo a vedere il comunicato finale, lì c'è proprio l'elenco, parla proprio mercato unico, innovazione, agenda digitale, ovviamente tutto declinato in chiave green, i grandi progetti. Insomma, diciamo che si apre davanti una prateria e secondo me il tema degli investimenti sarà assolutamente prioritario. Io ci legherei anche il tema dell'anticipo, se vogliamo, di qualche misura di sgravio fiscale importante. Ricordiamo che dal 1° luglio è in vigore un taglio del cuneo fiscale, che però, insomma, è abbastanza limitato, essendo 3 miliardi. Come ha già in qualche modo fatto intendere il ministro Gualtieri, con lo scostamento di bilancio si potrebbe anche provare a incrementarlo e poi magari lo si recupera dopo con i fondi europei. Insomma, ci sono molte possibilità. Io vedo come prioritario il tema degli investimenti assoluto, anche perché, come sappiamo, ha una capacità di ritorno sull'economia di moltiplicatore enorme, e poi il tema delle tasse, ovviamente nella premessa che non è che puoi finanziare la riforma fiscale sull'IRPEF o sull'IVA con i fondi europei, però magari un anticipo già quest'anno, sfruttando queste risorse che si possono già utilizzare, potrebbe essere possibile. Io credo che queste siano assolutamente le priorità. E emerge in maniera chiara che a questo punto non dico che sia un problema avere così tante opportunità, ma diciamo, visto che hai delle praterie su cui mettere i progetti, l'importante è non essere in qualche modo paralizzati dall'eccesso di opportunità. Sarebbe veramente paradossale se, dopo aver chiesto questo recovery, ci bloccassimo perché non abbiamo sufficiente, tra virgolette, fantasia. Grazie a ambedue, quindi grazie a Dino Peso e del Sole 24 Ore, grazie anche al professor Lorenzo Forni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.